Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Milano è la città che si è maggiormente trasformata nel corso del tempo, dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale agli insediamenti industriali alle grandi migrazioni dei primi degli anni 50, al boom economico degli anni 60 fino alle ristrutturazioni delle fabbriche degli anni 70, all'esplosione dei settori di moda e design, del terziario avanzato, della finanza. Anche sul piano cinematografico Milano è un set a cielo aperto. Ogni angolo è stato perlustrato dalle vecchie cineprese negli anni 10 e dalle nuove camere digitali di oggi. Prima che il regime fascista concentrasse le grandi produzioni cinematografiche nelle nuove strutture romane di Cinecittà, Milano ha rappresentato il centro nevralgico delle prime sperimentazioni in Italia, un luogo di fiorente innovazione, di creatività e capitale della nascente industria filmica. Negli anni 30 la costruzione dei teatri di posa di Roma e il conseguente trasferimento nella capitale delle attività produttive provocarono una perdita di centralità di Milano all'interno della produzione cinematografica. Il nostro viaggio nei set cinematografici parte da Miracolo a Milano, il film di Vittorio De Sica del 1951. Tratto dal romanzo Totò il Buono di Cesare Zavattini, si sviluppa come una favola che ha per protagonista un ragazzo orfano che sogna un mondo dove buongiorno voglia davvero dire buongiorno. Memorabile la scena in cui, rubate le scope e i netturbini in una piazza Duomo affollatissima, tutti i protagonisti vi salgono a cavallo per poi volare nel cielo di Milano. Questa scena ha ispirato Steven Spielberg nel celebre Volo con le biciclette di E.T. e la Milano dal cuore in mano anche, dove i poveri ospitano gli altri poveri. C'è dentro quasi niente qui. Ma mica mi piace la valise. Scusa, dov'è che si può andare a dormire? Per dormire bisognerebbe andare in centro, ma se ti entriamo le siamo andati via. Potrei ospitarlo a casa mia, se lei crede. Grazie. Andiamo allora. Andiamo. Milano ha ospitato le scene di Totò Peppino e La mala femmina di Camillo Mastrocinque del 1956, un film che racconta le avventure dei fratelli Antonio e Peppino Caponi, che raggiungono Milano da Napoli sulle tracce del nipote Gianni. Il giovane studente di medicina si è innamorato di Marisa, ballerina di avanspettacolo, e l'ha seguita al nord. I due vogliono convincere i ragazzi a lasciarsi e tentano di persuadere Gianni a tornare a casa. Oltre alla mitica scena con il Ghisa in Duomo, celeberrima anche la famosa lettera alla mala femmina. Carta, calma e pizza, su. Allora, scrivi. Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su. Carta, calma e pizza. Oh. Ragazzi. Signorina? Signorina? Dove sta? Sì. La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. E che dice? Signorina. Avanti! Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina. Non era buono quella signorina. Ma già. Signorina. Veniamo. Veniamo. Noi. Con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Che? Che? Che? Che? Uno, quanto? Che? Uno che? Uno che? Che? Che? Scusate se sono poche. Che? Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Voi. Punto. Nonostante avesse perso il primato produttivo agli inizi degli anni 60, Milano riesce a convertirsi nel luogo ideale dove sviluppare due nuovi filoni cinematografici. Quello pubblicitario, che avrà la sua più clamorosa espressione in Carosello, quello industriale, che vedrà protagoniste diverse aziende come Pirelli, Breda, Campari, Edison, tra le altre, teso a valorizzare la realtà imprenditoriale attraverso lo sfruttamento del linguaggio cinematografico. Nel 1960, in pieno boom economico, Luchino Visconti gira a Milano Rocco e suoi fratelli. Rido Scalo e il Ponte della Ghisolfa fanno da sfondo le scene più drammatiche del capolavoro di Visconti. Narra le vicende della famiglia lucana dei Parondi. Il padre di Rocco muore con la madre e i suoi fratelli, Simone, Ciro e Luca, raggiunge il fratello più grande, Vincenzo, emigrato già da qualche tempo a Milano, nella speranza di cambiare vita. Come poteva pensare mai che Simone t'amava tanto? Sapeva che gli era successo qualche cosa che l'aveva cambiato. Lui che era così buono. Però io non potevo sapere che la causa eri proprio tu. Non è vero, Rocco. Non è vero. Solo un uomo ridotto alla disperazione fa quello che ha fatto lui l'altra notte. Solo un uomo vile e crudele come lui. Io ti amo, Rocco. Non mi credi. Ma non capisci che allora è tutto inutile, non vale la pena. Non credo più a niente. Ti prego, Rocco, ti supplico. Se continui a parlare così mi butto di sotto. Mi ammazzo, hai capito? Nadia, Nadia, senti. Nadia, no. Nadia, fermati. Nadia, senti. No, Rocco, lasciami. Per l'amor di Dio. Voglio morire. Nadia. Nadia, fermati. Lasciami. Nadia. Lasciami, ti supplico. Lasciami. Tu mi hai teso una mano. Mi hai convinto che la vita che facevo era mostruosa. Ho imparato a volerti bene. E adesso per la vigliaccheria di un mascalzone che ha voluto umiliarmi davanti a te per ridurci al suo stesso livello, improvvisamente niente più è vero. Quello che ieri era bello e giusto diventa una colpa oggi. Tutte e due siamo colpevoli. E io più di te. Tre anni dopo, Vittorio De Sica ambienta a Milano una parte di ieri, oggi e domani. Il film è articolato anche a Napoli e Roma. È vincitore dell'Oscar al miglior film straniero nel 65, interpretato da Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Il capoluogo lombardo fa da sfondo al secondo episodio, Anna, in cui una ricca signora intrattiene una tresca amorosa con un uomo di modeste condizioni. Anna, ti ho fatto male. No, niente. Ma brucia tutto qui. La macchina. Ma cosa hai fatto, Dio mio? Cosa hai fatto? Niente, stavo uscendo di strada, ho frenato. Ma qui sta bruciando qualcosa. Madonna, ma qui brucia la ruota. Ma dai, muoviti, fai qualcosa, imbranato, qui brucia tutto, si incendia la macchina, bisogna tamponare e tira fuori qualcosa? Sì. Ma come si fa a essere fatti in quella maniera lì? non sarai mica matto con la pelliccia! Con la giacca, prova con la tua giacca! Oh, Madonna, ma qui salta tutto per aria! Il crick, tira fuori il crick! Oh, Madonna, è andata, Ma cosa fai là? Ma Cristo, non si apre! Oh, santo Dio! Ma il crick, t'ho detto, il crick! Lo saprai che cos'è il crick, no? Siamo nel 1978 ed Ermanno Olmi produce L'albero degli zoccoli, un vincitore della Palma d'Oro al 31esimo Festival di Cannes. È ambientato tra il 1897 e il 1898 e racconta le vicende di quattro famiglie di contadini che vivono in una cascina di pianura a Palosco, nel Bergamasco. Uno degli episodi riguarda Stefano e Maddalena, due giovani sposi che arrivano in una Milano agitata dai tumulti della cosiddetta protesta dello stomaco, meglio conosciuta come la repressione del generale Bava Beccaris nel maggio 1898. Ciao. Oh, Madonna, mi avete fatto spaventare. Come mai? Cosa fate qui? Boh, avevo voglia di vedervi. Se è per questo, ci vediamo tutte le sere quando venite in cascina. Ma non è la stessa roba. Un conto è vedersi in cascina in mezzo a tutti. Un conto è vedersi qui da soli. Fa ancora un bel freddo la sera. Ma no, non gela più neanche l'acqua nei fossi. Mancano 15 giorni e siamo nel mese della Madonna. Siamo a Eccezionale Veramente di Carlo Vanzina, 82. È una commedia interpretata da Diego Abatantuono, racconta la vita di tre tifosi, il milanista Donato, l'interista Franco e lo juventino Tirzan. Donato, detto Ras della Fossa, è un giovane che vive insieme ai genitori e ai numerosi fratelli nella lontana periferia di Milano. È capo degli ultra del Milan e dopo un derby perso ha una colluttazione con Sandrino il Mazzolatore, capo ultra dell'Inter. Sandrino finisce accidentalmente in coma e Donato, preso dal rimorso, va a trovarlo in ospedale dove conosce la sua fidanzata, Loredana, che finirà per innamorarsi di lui. Qui invece la scena girata in un bar di Milano. Oh, la Madonna, che maialone che... Fa così anche a casa? Che vergogna. Certo che se va via di fagioli il suo fidanzato fa lo sbarco in Normandia. Sembra un bell'uomo. Peccato questo piccolo difetto. Due ala pronti. Oh, ragazzo, sto uscendo. Ma la signorina che c'era qua, dove è andata? È andata fuori a prendere una boccata d'aria. Ah, sì? Ma scusami, dove stai andando? Cosa è successo? Vergogna! Maledetto il giorno che t'ho incontrato, di Carlo Verdone del 1992, la storia di Bernardo, giornalista romano che vive a Milano dove sta ultimando una biografia di Jimi Hendrix. Frequenta un analista perché dopo essere stato lasciato dalla sua compagna soffre di depressione e ipocondria. Durante le sedute conosce Camilla, attrice complessata che come lui fa largo uso di antidepressivi e ansiolitici. Vai. Uno. Sì. Due. 3. Devi sapere che c'era molta gente interessata ad eliminare Hendrix per motivi discografici. Hendrix? Hendrix. Lo psichiatra tedesco? Ma no, Jimi Hendrix, il chitarrista di colore. Ma che figura ci facciamo? Un duo diabolico. Tu un amantide e io un ruffiano schifoso. Permetti. Ma che? Ma che fai? Ma lascio le perdere. Ma chi sei? Ma perché mi tocchi? Ma chi te conosce a te? Il mio nome è Camilla, non Billa. Chi ti ha dato il permesso di chiamarmi Bernie? I baci, Bernardo. Bisogna saper baciare. Labbro leggero, lingua serpente, lingua pennello. Una passata di lingua nel palato. Copro tutto fino al delirio schizzoide escluso. Ma poi che sistema è? Ti do casa mia per venire a scopare con il mio analista. Ma perché do l'idea di uno con poche palle io? Completamente. Oddio, mi sento male. Mi gira la testa, il cuore. Oddio. Ma mi aiuto, aiuto! Yeah! Ma mi vuoi bene pure se ti ho rovinato tutto? Forse te ne voglio anche di più. Lasciami in pace, capito? Lasciami in pace! Della Cornovaglia, ci vieni, su tutto! È maledetto il giorno che t'ho incontrato! È tutto ambientato a Milano, come del resto gran parte dei loro film Chiedimi se sono felice, di Massimo Vernier e Aldo Giovanni Giacomo, del 2000. Che squillino le trombe, signori spettatori. Inizia la commedia. Che parlino gli attori. Cristiano, amico mio, abbracciami, guascone. Cirano, che notizie porti? No, non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Giovanni, devi concentrarti, fra 5 giorni abbiamo il debutto. Avanti. Niente, ho cercato da tutte le parti, ho chiamato le sue amiche, niente, nessuno sa dov'è. E pensa che sfiga, cioè la Paola mi ha detto che quando io ero a Francoforte lei è venuta a cercarmi al Grande Magazzino. Cioè io come un deficiente a Francoforte e lei lì al Grande Magazzino. Tu non l'hai vista. Chi? Come chi? Marina. No. Certo. Sarà venuta quando siamo buttato fuori, poi è arrivata lei. Sarà andata così, dai. Pure ci ha ripensato, è rimasta a casa. Molto più probabilmente ci ha ripensato. Comunque, tu adesso, Giacomino, comincia di nuovo da Cristiano, amico mio, guascone. Cristiano, amico mio. Beh, in effetti è venuta. Come è venuta? È venuta lì a cercarti e... E perché non me l'hai detto? Ma così ho pensato, ma non glielo dico, c'ha già un sacco di pensieri, glielo dirò magari più avanti. Pensieri che cosa, Giacomo? Che cosa ti ha detto? Ma niente, è venuta lì a cercarti e non t'ha trovato e se n'è andata. Niente, Giova, niente. Giacomino, avanti, Cristiano, amico mio, Guascò. Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante del 2009 ha come protagonista il giovane cantante di Polignano Checco Zalone, che mentre sogna di entrare nel mondo dello spettacolo lavora part time nella ditta di suo zio come muratore. Dopo la rottura con la storica fidanzata Angela si trasferisce a Milano, ospite del cugino omosessuale Alfredo. Chi è? Scusa Checco, ti disturbo? No. Ti devo parlare. Che è successo? Madonna, non so come dirtelo. Che cosa? Io e Manolo stiamo insieme. Veramente? Abbiamo fatto finta di essere amici così, però. No. Però fingete bene, lo sai. Oh, però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere. No, ma stai scherzando, a casa tua a dire una cosa del genere. Mi dispiace, Checco, io... No, mi dispiace a me, per quello che ho detto prima, il fatto del treno, il fatto che hai detto che è salito l'uomo, come si dice la razza vostra in italiano, il uomo. Ah, figurati, chi se ne frega. A ridere. Ma per carità, lo so. Andiamo a dormire, dai, andiamo a dormire. Guarda, non sai quanto mi sento bene, mi sono liberato di questo peso che avevo. Tranquillo, vai a dormire, dai. Senti, non mi dispiace, magari tu pensavi di trovarti in una situazione diversa. Stai tranquillo. Posso stare tranquillo? Oh, ti ho detto, stai tranquillo. Grazie. Ciao. Fam, stai tranquillo pure a me, Fam. Dalle prime sperimentazioni degli anni 10 all'epoca d'oro degli anni 60 fino alle produzioni più recenti, con la nascita di un genere commedia tutta milanese che ha visto affermarsi artisti come Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Diego Abatantuono, Aldo Giovanni e Giacomo. Milano è ancora oggi il set urbano preferito dai cineasti italiani e internazionali. Film, documentari, reportage, produzioni televisive, pubblicitarie di ogni tipo rappresentano un settore economico trainante e ancora innovativo sul piano tecnologico.